Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui. Eccoci qua. Lunedì. E in questo lunedì di inizio luglio è cominciato già, però insomma tutta la settimana. Noi ricordiamo Alessandro, il nostro ascoltatore del 24, siamo in onda tutti i giorni feriali, da lunedì a venerdì fino alle 9.30. Esatto, tutto il mese di luglio ci allarghiamo fino alle 9.30 in diretta. Rigorosamente in diretta. Allora, 4 luglio oggi, insomma, tutti coloro che amano la libertà sanno che 4 luglio è il giorno dell'indipendenza americana, 1776, le 13 colonie, quindi viva viva. E infatti oggi vedremo che questo 4 luglio ha qualche... Qualcosa succederà. Aggancio anche in Italia, proprio per un pezzo d'America in Italia, che l'Italia un po' contesta, però insomma, viva il 4 luglio. Detto questo, oggi è Santa Elisabetta del Portogallo, regina, come sempre le regine, figlia di un re di Spagna, e poi diventa regina perché dà tutto ai poveri. Cioè, come avrete capito, io insisto molto sul fatto che la Chiesa, spesso nei secoli, ha scelto re o regine che davano tutto alla Chiesa, chissà come mai. E il significato era chiaro: ci piacciono i re che abbassano le pene di fronte alla Chiesa. E del resto anche Santa Berta di oggi, figlia di un conte palatino dei Merovingi, è anche lei da tutta la Chiesa. San Laursab, che c'è anche oggi, re georgiano, questo gli è scannato dai musulmani, e questo, come ci ricorda, è un punto ricorrente della storia. Io infatti qui mi fermo, perché sapete che purtroppo con i martiri di Dacca italiani non è che nei secoli ogni tanto riprende questa storia di scannarsi a vicenda. Sì, sì. Noi, caro Oscar, oggi parleremo anche di politica, più avanti avremo Giovanni Toti, parleremo appunto di McDonald's, ci verrà a trovare l'amministratore delegato di McDonald's Italia, perché è quel pezzo di America, esatto, se possiamo dire così, anche se ormai McDonald's è globale. È globalizzato, però agli occhi, insomma, iconicamente è così, no? È quel pezzo di America che a Firenze qualcuno contesta, non lo vuole in Piazza Duomo. Però dobbiamo partire inevitabilmente, insomma, dalle analisi di quello che è successo a Dhaka in Bangladesh. Io ho combattuto molto nel weekend, Oscar, ancora, chi dice la religione non c'entra. Ho visto i tweet del Facebook. Ieri anche l'ambasciatore ex in Iran, Roberto Toscano, su Repubblica, giornale non certo estremista, ha detto: speriamo almeno che adesso non ci siano più coloro che dicono che la religione non c'entra laddove uccidono e decidono di uccidere chi non sa il Corano. Sembra quasi, insomma, negare l'evidenza, no? Di fronte a un... Sì, io devo dire che ieri, mentre in mattinata facevo tweet dicendo: bah, leggo su Repubblica che l'ISIS metterebbe accoliti per via delle ingiustizie sociali, della globalizzazione, del libero mercato. Poi nel pomeriggio, una volta appreso che gli attentatori erano di buona famiglia, dico: la linea è cambiata, adesso diventano attentatori per la noia da benessere. Sì. Allora io smetterei con questi cliché che non c'entrano niente. Sociologici, ecco. Di un po' di basso profilo, insomma. Mentre invece, secondo me, questi nuovi, ogni volta, dopo come nascevano quelli delle forze armate e così, questa volta i martiri italiani sono un po', per così dire, a nome di tutta la grande comunità di imprenditori, manager, lavoratori, che secondo me davvero tengono alta l'Italia nel mondo, perché il fatto di essere tutti lì per lavorare nelle imprese tesse, insomma, mi ha molto molto colpito. E poi c'erano tra piemontesi, lombardi, friulani, siciliani, campani, laziali, cioè... Era veramente una fotografia dell'internazionale italiana dell'impresa del lavoro, ecco. Ricordiamo 9 italiani uccisi, 20 invece le vittime totale. Tra l'altro, caro Oscar, noi abbiamo raggiunto, lo ringraziamo, Lorenzo Cremonesi, che è inviato del Corriere della Sera, si trova proprio a Dacca. Buongiorno, ciao Lorenzo, e per te è già mattinata inoltrata, immaginiamo. Sì, buongiorno a tutti. Allora, proprio oggi sul Corriere della Sera si racconta, come i giornali internazionali, del fatto che queste persone... Fossero persone, questi attentatori, figli della cosiddetta società bene, ecco, del Bangladesh. Perché è importante sottolineare questa cosa? Ma è importante perché, come mi hanno raccontato anche tanti giornalisti locali con cui ieri ho cooperato per cercare un po' di fare il quadro degli attentatori. Il pregiudizio comune si pensava fossero classici figli delle madrasse, cioè delle scuole religiose musulmane, così come avveniva in Pakistan per Al-Qaeda o in Afghanistan, e cioè in genere figli di famiglie molto povere, magari profughi, educati in queste scuole radicali che, ahimè, sono sovente finanziate da paesi tipo paesi del Golfo, Arabia Saudita, eccetera. Questo almeno era lo scenario dove è nato ed è prosperata Al-Qaeda nel Pakistan e nell'Afghanistan di 15-20 anni fa. Invece assolutamente no, la cosa che emerge, specialmente dopo che la stessa Al-Qaeda apparentemente ha diffuso le foto di almeno 5 di loro, e quindi le identità sono apparse a tutti, sono tutti rampolli, classici rampolli, figli di famiglie bene, che vanno tra l'altro a questo istituto superiore, a questo liceone che si chiama Scolastica, che ha 4 sedi, che io ho visitato ieri qui a Dhaka, dove si paga circa 3.000-3.500 euro dollari annuali diretta, che a noi sembra tanto, abbastanza poco, no, ma che per il Bangladesh è un'enormità, tenuto conto che qui i salari medi sono di 100-150 dollari al mese, se non di meno. Quindi frequentati tra l'altro da figli appunto degli apparati dello Stato, di impiegati statali, di imprenditori, di politici e di professori. Tant'è che io sono riuscito anche a parlare con un compagno di scuola di uno degli attentatori, che sembra sia tra l'altro un carattere abbastanza dominante, se non il leader, comunque uno che era abbastanza carismatico, il quale mi ha raccontato come la scuola, la mamma di questo ragazzo 22enne, è addirittura professoressa di matematica nella stessa scolastica, nella stessa scuola. Il padre è un celebre politico dell'Al-Awami, che è il maggior politico, è il partito al governo, e tra l'altro pezzo grosso della municipalità di Dhaka. E gli altri sono tutti simili. E cioè un altro, adesso il nome non me lo ricordo, sì, è figlio di uno dei brigadieri generali della polizia. La creme della società, insomma, della società bengalese. Lorenzo, una domanda che, per esempio, il Messaggero mette in prima pagina questa notizia, e cioè, secondo i ROS, i carabinieri, c'era una pista per colpire gli italiani proprio, invece altri dicono no, gli occidentali. Questo è un'altra cosa importante. Io veramente, tanto lo stesso Gentiloni lo ha detto ieri, a me io non ci credo, non mi sembra proprio, loro volevano colpire, allora sono entrati probabilmente più o meno, vogliamo dire occidentali, comunque venga qui in questo Gorsham, in questo quartiere delle ambasciate, tra l'altro il bar, ristorante colpito è a, non so, 500 metri dall'ambasciata nostra, ma dove c'è, è a 100 metri da quella russa, eccetera, eccetera. E tra l'altro a 500 metri c'è una delle sedi della scolastica, della stessa scuola frequentata, sembra almeno da tre degli attentatori. No, direi di no, volevano colpire gli occidentali, questo è un luogo frequentato sostanzialmente da occidentali, da stranieri, imprenditori, diplomatici, eccetera. E tra l'altro pare che un paio degli attentatori lo frequentassero, quindi conoscessero. E addirittura una delle storie che gira qua è che quando loro sono entrati hanno riconosciuto 2 o 3 bangladeshi che erano qua, che erano nello stesso locale, quindi erano avventori abituali, cioè, quindi ancora fa parte, però io non credo affatto, cioè, volevano colpire un luogo frequentato da occidentali, certo. Esatto, perché è un simbolo, e come si dice qua, tra l'altro lo ha notato anche qualche altro giornalista locale, questo è un paese poverissimo di 180 milioni oltre di abitanti, reddito medio nullo, con problemi di inquinamento, ecosistema giganteschi, in tensione con l'India sulla questione delle acque, e la morte, ahimè, quotidiana è un fatto che non tocca a nessuno. Io venendo adesso, questa mattina mi sono mosso per un prodore in auto, ho avuto decine, come succede spesso in queste aree del mondo, decine di poveracci senza braccia, senza gambe, che ti chiedono l'elemosina, proprio è una cosa normale, quindi la vita non costa nulla. Invece colpire un occidentale costa molto, famosi, eccetera. Lorenzo, noi ti ringraziamo, insomma, grazie a Lorenzo Cremonesi, inviato il Corriere della Sera, per questa testimonianza. Sentiva anche rumoroso da Dacca, no? Il classico traffico sotto, in sottofondo. Non so, Oscar, qui dobbiamo io quando leggo sui giornali ora un metodo per proteggere gli italiani all'estero, mi sa che questo è un mondo con cui dovremmo fare i conti. Sì, il punto è che vi sono un numero crescente di paesi, nel senso che basta vedere il bilancio generale degli attentati 2015-2016 dell'islamismo per capire che in realtà sono concentrati soprattutto nei paesi asiatici e africani, molto più che in Europa e negli Stati Uniti, anche se la nostra consapevolezza ovviamente si espande quando c'è l'attentato al Bataclan, quando c'è in Europa e così via. Detto questo, vi sono paesi nei quali effettivamente chi opera lì, nelle imprese italiane, il lavoro italiano, cioè chi sta stabilmente lì, dovrà per forza cambiare, assumere delle misure di autoprotezione molto molto molto forti, cambiare le proprie abitudini, andare nei posti dove vanno gli occidentali è già diventato da un anno e mezzo la maniera per autoesporsi. Questo purtroppo bisogna sapere che è così, che è un po' in questo senso già la vittoria del terrorismo, il fatto di modificare il nostro stile di vita, la nostra voglia. Però vi sono di dei paesi in cui la loro porosità, la loro capacità di fare proseliti e colpire è molto elevata. Non dimentichiamo che stiamo parlando anche dei paesi in cui i governi sono pesantemente compromessi con le reti jihadiste, perché il caso del Bangladesh è il caso di un paese che è invaso dalle madrasse finanziate dalle monarchie del Golfo, che hanno radicalizzato in 20 anni in maniera verticale l'Islam locale, facendo proselitismi per le reti jihadiste. Quindi sono pezzi interi del mondo che hanno conosciuto questo fenomeno, che ricordiamolo nasce dalla volontà della monarchia del Golfo di pagare profumatamente attraverso le madrasse le reti jihadiste per tenere lontani dai loro paesi il tentativo di sovvertire i regimi che li governano. È così, ovviamente ci saranno i funerali, ma questo ho capito, i funerali di Stato, ma in Bangladesh per le vittime, poi torneranno le 9 salme degli italiani tutte insieme. C'è anche, io penso insistentemente da giorni, all'angoscia anche di questo italiano, marito di una delle vittime, che si è salvato solo perché è arrivata una telefonata a lui mentre erano seduti, si è allontanato in giardino. In quel momento sono entrati i terroristi, allora lui, per salvare la propria vita, si è nascosto per ore e ore nel giardino. Oggi racconta su Repubblica anche purtroppo suo, avendo la moglie dentro, certo, lo strazio che... immagino di pensare per tutta la vita di avere fatto questa scelta per preservare la propria vita nel momento in cui stavano uccidendo la moglie e altre persone all'interno. Io ti dirò che ci ho pensato a lungo ieri, perché mi sono posto la domanda che immagino tutti si pongono in queste cose: ma tu cosa faresti con tua moglie così fuori? E mi sono detto che poi alla fine è inutile dare una risposta. Ma sì, perché innanzitutto mi sento a disagio all'idea di giudicare quella persona che, di fronte al fatto che stavano uccidendo dentro, non saresti di far cosa poi di andare a farsi uccidere pure lui, perché poi questo è il punto, mica li poteva salvare da solo senza armi, come peraltro Oscar ha fatto invece un ostaggio musulmano che era già libero, che era libero perché sapeva recitare il Corano, ma ha detto: io vado via se possono venire via le mie due amiche. Però era di seduto con le sue due amiche, atto di eroismo assoluto, anche lui l'espressione della classe dirigente del Pakistan, quindi giù il cappello. Noi però non puoi fare il paragone con il marito dell'Antona, che si è trovato, lui era fuori in giardino per caso per una telefonata, quindi in quel caso non è che sei al tavolo con lei, sei libero, dici: resto con mia moglie, perché quello a me verrebbe anche persino a me scontato. Cosa diversa è mettersi nei panni di uno che sta fuori, il caso ha voluto che non fosse lì, entra e ti fai uccidere anche tu. È il dramma, e come lui ha detto in una serie di interviste, mi porterò per tutta la vita, insomma, di questo senso di colpa, anche se oggi a Repubblica dice: paradossalmente pensavo fino alla fine che mia moglie ce la fosse viva, che potesse essersi salvata, perché è stato, sono state ore di grande, grande confusione oltre che di panico. Allora, noi non abbiamo dato il numero di telefono, 800 24 00 24, se volete intervenire su questo tema. Poi parliamo anche un po' di politica tra poco, caro Oscar, perché c'è movimento nella politica italiana. C'è movimento, poi oltretutto in Forza Italia avete visto, per molto volte ne parleremo, no? C'è una specie di cambio di marcia, di musica, vedremo. La Lega non è molto convinta, a dire la verità, perché di mezzo c'è tornare a mettersi d'accordo con Renzi. Il famoso patto del Nazareno. Dire che anche Roma sui 5 Stelle, Torino accidenti, no, io da torinese sono abbastanza soddisfatto. A Roma pare stracci e non hanno ancora iniziato a lavorare. Ovviamente dal Movimento 5 Stelle diranno che è tutta un'invenzione dei giornali, che non è vero niente. Però questo dilaniarsi tra parlamentari già eletti, le due parlamentari già eletti, la sindaca e Grillo che torna, invocato da tutti, come pensaci tu, perché le nomine annunciate e poi smentite, insomma. Insomma, pare addirittura che Virginia Raggi abbia già messo sul piatto a Beppe Grillo le proprie dimissioni, insomma, per dire o si fa così oppure me ne vado. E ripeto, non c'è stato manco il primo consiglio comunale, quindi non sono ancora stati messi alla prova sul fatto di governare Roma. Comunque, insomma, di politica parliamo, di terrorismo parleremo poi, visto che andiamo avanti fino alle 9:30, di McDonald's a Firenze. Lo vorrete oppure no? Allora, nel centro di Firenze. A questo punto noi racconteremo la storia, visto che qui non si tratta di dire no, perché sì. Il problema è che il comune ha molto a lungo trattato con l'azienda prima di cambiare idea. E noi siamo dell'idea che se vogliamo attrarre le aziende internazionali, forse non bisognerebbe fare così, o no? Vabbè, e poi si parla anche del calcio? No, non se ne parla più, è finita. Di calcio cosa dobbiamo parlare? Del balletto alla Carla Fracci, di Zaza, tutti gli italiani hanno vissuto questa specie di tragedia, tragicomica vicenda della sicurezza. C'era la sicurezza, ai rigori, la verità è che gli italiani pensavano di aver vinto, come si capiva da come sono... Del te faccio il cucchiaio. Ecco, e invece poi alla fine, malgrado errori pazzeschi dei rigori tedeschi, ha ragione Buffon, ma se neanche quando i tedeschi sbagliano tre vinciamo, ma quando? Cioè. Ma quando? Io dico solo, puoi fare certe cose se ti chiami Messi, se ti chiami Ibrahimovic, se no. Vabbè. È entrato al 120esimo minuto, Simone Zaza. Alto. Lui era, no, è il tiro che era alto. È andata così. È finita con le lacrime. Questo piagnisteo generale. Conte che piange. Perché si dice sempre le lacrime delle donne. Ora un condottiero può piangere. Conte che piange. Buffon che piange. E poi c'è stata Conte questa cosa che piange. Quasi sinistra, perché dire non è un addio, è un arrivederci. Detto col tono della minaccia, però, che uno dice: mio Dio, povero Ventura, l'ex allenatore del Torino, che morirà presto Ventura e tornerà a Conte. È un granata, dai. Ah, no, vabbè, certo. Dai, del Torino. Interessante questa alternativa nella conduzione della nazionale. Adesso noi poveri torinisti ci sentiremo dire tutto il male possibile. Vabbè, è arrivato uno del Torino. Vabbè. Tra poco. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Mattino. Allora, caro Oscar, eccoci qui. Vogliamo parlare anche un po' di politica, visto che si muove molto sotto la cenere la politica italiana. Molte parole. Più che altro, ecco, più che muoversi siamo, però sono gli effetti, diciamo, del turno amministrativo, e quindi effetti che ci sono un po' dovunque, come si dice, ci sono per il PD che oggi tiene la direzione, una direzione che è stata slittata per via doveva esserci venerdì scorso, poi è slittato ovviamente, e vediamo oggi cosa succede. Il 5 Stelle l'abbiamo detto, e poi c'è Forza Italia, o comunque Forza il centrodestra, con Berlusconi che torna, quando verrà dimesso tra poco, dopo l'intervento a cui è stato sottoposto, e torna, ha cambiato il circolo intorno a sé. Si dice il partito azienda, uomini dell'ex amministratore dell'azienda. C'è Confalonieri che si è fatto vivo a sorpresa con una intervista nella quale la stampa ha detto bisogna tornare al sostegno aperto con Renzi, perché nel referendum se no succede un pasticcio, e poi ha detto anche perché altrimenti se vengono i 5 Stelle per le nostre aziende va male. E c'è stata una reazione dei vertici del partito a questa tesi Confalonieri molto secca. Sì, anche perché ha detto Confalonieri questo, perché i sondaggi dicono che in questo momento che le due forze predominanti sono il PD e il Movimento 5 Stelle, anzi questi due sondaggi che sono usciti la scorsa settimana che danno a pari merito quasi, addirittura alcuni davanti il 5 Stelle rispetto al PD nel gradimento degli italiani. Per questo abbiamo chiamato Alessandra Ghisleri, direttore dell'Istituto di Ricerca Rural Media Research. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a tutti voi. E insieme a noi c'è un protagonista sicuramente della politica, anzi uno a cui si guarda come possibile leader dopo Berlusconi, ovviamente subito smentirà, Giovanni Toti. Buongiorno Presidente della Regione Liguria. Buongiorno, facendo i debiti scongiuri, buongiorno. Certo. No, però quanto c'è di vero? Quanto ha senso parlare di leadership di Forza Italia dopo Berlusconi, Toti? Ha senso parlarne? Ma nessun senso, come ho avuto modo di ripetere tante volte. Forza Italia è un partito che è stato creato, inventato, che è intrinseco nel DNA del presidente Berlusconi, quindi parlare di leadership di Forza Italia a prescindere da Berlusconi è assolutamente un esercizio retorico piuttosto assurdo. Se parliamo di coalizioni, di candidature, di altre cose, è un altro ragionamento. Forza Italia è una parte del centrodestra, non è il tutto il centrodestra, e quindi è evidente che occorra trovare degli accordi con gli alleati. Su questo non c'è alcun dubbio. Mentre sul ragionamento che stavate facendo prima, mi perdoni, PD 5 Stelle, dove il centrodestra ha corso unito, è sempre stato un confronto PD-centrodestra. Non è vero che il centrodestra è irrilevante nel confronto politico-elettorale, anzi direi che è il contrario. In tutte le città, tutte, senza nessuna esclusa, dove il centrodestra ha corso unito è andato al ballottaggio, o come a Napoli con De Magistris, quindi diciamo col sentimento più antipolitico vicino ai grillini, o con il PD. Sono andati al ballottaggio altri e non noi, quando noi ci siamo divisi e ci siamo fatti male da soli, come a Roma, come a Torino. I nostri elettori ci hanno punito, e ci hanno punito giustamente, sottolineo giustamente, con la G maiuscola. Quindi l'unità è la chiave per Toti, ma anche con Alfano, per dire, cioè ritrovare addirittura una chiave per... quello dipende più da Alfano che da noi, per la verità. Io dove governo la Liguria, ma anche la Lombardia dove governa l'amico Maroni, è area popolare, diciamo quell'area lì, che magari non è esattamente la componente di Alfano che la controlla. Noto in Lombardia c'è Maurizio Lupi, che ha un grande peso intellettuale e politico su quell'area, sono al governo con noi. Altrove sono al governo con il PD, si chiamano Nuovo Centrodestra, è piuttosto un ossimoro, ma non posso fare scelte per altri partiti. Per quanto mi riguarda, l'area cattolica di centro fa parte del centrodestra, chi si chiama Nuovo Centrodestra penso abbia ambizioni da questa parte della barricata, diciamo. Però, ripeto, è dibattito loro, non mio. Dibattito loro. E qui bisognerebbe capire se i sondaggi danno davvero quello che abbiamo letto, Ghisleri, cioè PD, Movimento 5 Stelle, Toti dice certo il centrodestra unito è un'altra cosa, ma sono queste le due forze prese singolarmente più... che hanno più gradimento degli italiani, PD e 5 Stelle? Noi prendiamo in considerazione le singole liste, è ovvio che sono i due primi partiti, noi li abbiamo appaiati, quindi praticamente tra i due principali partiti, e Forza Italia rimane dietro come terzo partito, e poi arriva la Lega e tutti quanti. È ovvio che lei con questa premessa, come sempre in maniera sottile, elegantissima, io mi dolgo sempre per radio, non abbiamo lo schermo a quest'ora mattina, però detto questo avanza la vera ipotesi di modifica della legge elettorale. Perché... Ma il vantaggio è il fatto che, come diceva prima il Presidente Toti, se noi andiamo a vedere le tre forze importanti, quindi abbiamo da una parte il PD, con anche determinate forze piccole, più piccole intorno, che si vorrebbero alleare, quindi vorrebbero creare un'unica forza di centro-sinistra. Se guardiamo il Movimento 5 Stelle e guardiamo il centrodestra nella sua interezza, anche con solo una metà, ad esempio, di Nuovo Centrodestra, giusto per non essere, noi otteniamo, rispetto agli ultimi dati, tre forze politiche importanti, con tutte intorno al 30%. È evidente che in una forza politica di questo tipo risultano migliori la coalizione di centrodestra e il PD, perché più forti rispetto al singolo del Movimento 5 Stelle. Cosa accade però? Che se andiamo a fare gli scontri, lo scontro, diciamo, quello più storico, no? Tra centrodestra e centrosinistra, è ancora quello più in bilico, perché le due forze sono molto vicine. Nel momento in cui o sia il centrodestra o il centrosinistra si viene a scontrare con il Movimento 5 Stelle, un ipotetico ballottaggio secondo la legge dell'Italicum, allora in questo caso il Movimento 5 Stelle avrebbe la meglio nei sondaggi. Perché? Perché per entrambi gli schieramenti, sia di centrodestra che di centrosinistra, l'occasione si presenterebbe troppo ghiotta per abbattere l'avversario. Così è accaduto anche a Torino, no? Se pensiamo a tutte le schede elettorali, così è accaduto anche a Roma. E quindi in una situazione di questo tipo il Movimento 5 Stelle un po' viaggerebbe di quel boost, insomma, di quella forza di cui adesso sta godendo. Che cosa accade? Il Movimento 5 Stelle è molto forte, e anche lo stesso Di Maio nella sua fiducia a noi risulta molto davanti al Presidente del Consiglio, che Renzi. Fino adesso è, certo, a Renzi, perché è intorno al 30% la fiducia di Di Maio registrata in questi giorni, mentre invece il Presidente del Consiglio, a causa anche di tutto quello che sta accadendo, è molto più basso. Perché? Perché hanno questa forza, questo vigore che nasce anche dalle amministrative, che però devono mantenere, perché come ricordavate nella premessa, l'effetto Raggi è un effetto che ha un tempo e ha un timing molto stretto, quindi loro dovrebbero essere molto più veloci. Si vede anche infatti che queste liti in questi giorni non pagano moltissimo. Però su questo patto del Nazareno, Toti, qui bisogna dire una parola, perché Confalonieri, che non è solo un amico stretto di lunga data di Berlusconi, ma insomma gestisce le aziende eccetera, dice: per il bene evidentemente anche delle aziende, per il bene tuo politico, è bene riavvicinarsi e sostenere Renzi. È fattibile il patto del Nazareno bis, Toti? Ma no, ne abbiamo speso un fiume di parole, non una sola, e non solamente io, per dire che è una stagione passata e che io penso sarebbe anche deleterio per il paese, perché vorrebbe dire tornare a un mondo di intrucci grigi che farebbero tornare a crescere moltissimo i 5 Stelle. Io credo che il paese abbia bisogno di bipolarismo, abbia bisogno di un'alternativa a Renzi che non sia solamente quella dell'antipolitica, se me la fate semplificare così, di Grillo. Dopodiché, Confalonieri è il capo di un'azienda importante, la prima media company privata del paese o la seconda. È di tutta evidenza che un capo di un'azienda miri alla stabilità, è di tutta evidenza che chi fa il mestiere di Confalonieri in qualche modo, come d'altra parte anche altri industriali, cerchino continuità di governo, cerchino un percorso davanti che tranquillizzino mercati, azionisti e consumatori. Sta facendo il mestiere suo, ma non sta facendo il politico. D'altra parte, correttamente, nella sua intervista, come ha avuto modo anche di dire direttamente, Berlusconi non è d'accordo con me, come non è d'accordo con me Forza Italia. Quindi esprime un parere assolutamente autorevole, parlo di persona, come dire, a cui io sono anche personalmente legato, avendovi lavorato almeno un 15 anni insieme, di grande intelligenza, ma Confalonieri, come ho spiegato in qualche giornale in questi giorni, è polifonico, ama la musica e suona il pianoforte, gli piace avere una visione del mondo con tante sfumature e tante note, quindi non ha mai voluto fare politico, non si è mai candidato ad alcunché, quindi parla da un ruolo che è molto lontano dalla politica, pur influenzando ovviamente il dibattito politico. Posso fare una domanda un po' fuori dai denti, che non ho mai capito fino in fondo, e la domanda un po', mi rendo conto, alla posizione che ricopre, difficile rispondere a un sì o un no, ma Confalonieri quando parla così, parla a nome dei figli impegnati direttamente, cioè di Marina, Pier Silvio, a guidare l'azienda, oppure no? No, parla da persona che guida l'azienda. Federico Confalonieri è il presidente di Mediaset, siede in quasi tutti i consigli di amministrazione del gruppo Largo Fininvest, è certamente consigliere economico autorevole del presidente Berlusconi e degli azionisti di Mediaset, quindi anche dei figli, ma credo che dica idee sue, ma per la verità credo che un presidente di un'azienda quotata come Mediaset non avrebbe detto molto diversamente se si chiamasse rossi, bianchi o verdi. Dopodiché non so quanta coincidenza ci sia con le idee del vicepresidente Pier Silvio, che è amministratore delegato di Mediaset, o di Marina, ma immagino che la stabilità, come piace a tutte le altre aziende, piace anche a Mediaset, al di là dell'affetto che può avere per il papà e per il suo impegno politico. Cioè, i mercati e le aziende sono anche entità impersonali in qualche modo, che non hanno partigianerie o affetti particolari verso la parte politica. C'è un governo, c'è stata la Brexit, c'è bisogno di rassicurare mercati, azionisti, consumatori, c'è bisogno che le aziende comprino la pubblicità, questo è il loro mestiere e questo fa egregiamente. Ma sei capito bene, Ghisleri, che cosa spaventerebbe evidentemente le aziende, cosa spaventerebbe un confalonieri se il Movimento 5 Stelle, che è accreditato come possibile addirittura forza politica dominante in questo momento dei sondaggi, andasse al governo? Cioè, che cosa spaventa davvero? Ma intanto partiamo dal principio che comunque la maggior parte degli italiani non li reputa in grado ancora di governare, insomma, sufficientemente maturi per governare. È ovvio che hanno il loro proseguo, ma è la mancata conoscenza di quelle che sono le loro pianificazioni, perché noi dobbiamo pensare che nelle loro campagne elettorali hanno temi molto forti legati, non so, alla non costruzione di termoutilizzatori per lo smaltimento dei rifiuti, oppure una visione molto verde che è sconosciuta ancora e quindi è difficile sapere da che parte si va. E quindi è più facile la stabilità, ciò che si conosce fa meno paura di ciò che è l'entità sconosciuta. La paura dell'ignoto, il salto nel buio. È un po' la paura dell'ignoto, è un po' la paura dell'ignoto e la consapevolezza che forse ciò che si conosce non è poi così male, perché si conoscono i percorsi. Ricordiamoci che il nostro paese è un paese dove il nuovo deve, per arrivare, fa sempre grande clamore, poi magari si sgonfia subito. Renzi è già nella fase dello sgonfiamento al secondo anno. E ricordo anche che se c'è qualcosa che ha frenato e cambiato l'aspettativa, vince Pablo Iglesias, vince Podemos il 26 in Spagna, è stato che dove... A Madrid, la loro sindaca, nel giro di pochi mesi la città ha detto: beh, insomma, per il momento sta grande svolta annunciata. Noi ci abbiamo sperato, ti abbiamo letto, ma non l'abbiamo visto. Allora, noi ringraziamo Alessandra Ghisleri, Euromedia Research, e Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, che qui però abbiamo più interpellato come esponente politico. Caro Oscar, ci sono anche tante telefonate. Gianluca ci chiama da Roma, per esempio, su che cosa? Pronto? Ciao, buongiorno. No, semplicemente volevo tornare sull'argomento un attimo degli attentati. Sì. Io ho un messaggio solo, dopo l'ennesimo episodio, un messaggio solo sto ricevendo, no? E non lo sapete se sbaglio, secondo voi. Cioè, mentre aspettiamo che lo Stato si organizza, interpreta, capisce bene l'ISIS, eccetera, io intanto, per necessità, vado a studiarmi il Corano, o versetti del Corano, così qualora mi dovessi trovare in queste situazioni, comunque salvo la pelle. Tutto qua. Gianluca, guardi, io devo dire, è un pensiero che anch'io per 10 secondi ho avuto ieri. Temo ma in realtà... che non li si gabbi con qualche versetto, esatto, in arabo, perché basterebbe... quando iniziano a farti poi le domande successive, ma Gianluca, non solo, anni e anni di studio servono. Ma certo, ma non solo, basta vedere appunto giustizia. Anche chi si veste all'occidentale cosa fa? Impara il Corano, si fa crescere la barba e si mette il caftano perché va nei paesi arabi. No, non scendiamo a questo tipo di compromessi. No, il problema vero è che l'Islam moderato non ce la fa con questi, perché sapete meglio di me che non c'è l'interpretazione autentica del Corano che dice di sgozzare i nemici. Non c'è. Solo che l'Islam moderato non ce la fa. Allora, noi continuiamo fino alle 9.30, non vi lasciamo, vedete, non vi diamo l'appuntamento a domani, ma state con noi dopo state il giornale con noi radio. Per capire, ma insomma, vogliamo le multinazionali e poi le invitiamo, ci contrattiamo insieme e poi le bastoniamo. Ma insomma, parliamo di McDonald's proprio a Firenze. Proprio nella Firenze di Renzi. Anche gli ascoltatori, Alessandro da Milano, lo recuperiamo dopo il giornale radio, state con noi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Deborah Rosciani. La prima settimana post referendum per Brexit è stata davvero nervosa e complessa per i mercati finanziari internazionali. Con il terremoto che ne è seguito, le borse europee archiviano con un bilancio negativo il primo semestre dell'anno, con un netto peggioramento che si è verificato proprio nel mese di giugno. Ironia della sorte, però, è Londra a portare a casa invece un guadagno sia nella performance dell'ultimo mese sia da quella da inizio anno. Alla fine la questione politica, che ha mandato in forte ribasso la sterlina, ha favorito la maggior parte delle società quotate alla City, dal momento che l'80% realizza il proprio fatturato soprattutto all'estero. Da gennaio scorso invece Milano è la maglia nera d'Europa, con una perdita secca del 25%, e la situazione si fa sempre più ingarbugliata per il sistema bancario italiano, a dispetto delle buone notizie che sono arrivate dalla Commissione europea, che ha dato il via libera al sistema di garanzie pubbliche. Si parla di un pacchetto di 150 miliardi di euro da utilizzare solo se necessario nell'eventualità che le banche debbano fronteggiare in improvvise carenze di liquidità. I titoli del settore bancario hanno beneficiato solo in parte della notizia, mantenendo la medesima volatilità delle ultime settimane, e il caso della settimana è stato rappresentato da UniCredit. È stato nominato il nuovo amministratore delegato, si tratta del francese Jean-Pierre Mustier, ma dopo una iniziale rassicurazione da parte della borsa, il titolo ha ripreso a scendere sulla prospettiva che arrivi adesso un nuovo importante aumento di capitale per il gruppo. E in tutto questo, nell'Europa delle banche c'è un fermento abbastanza forte per la situazione di Deutsche Bank, che non ha superato gli stress test americani, e anche il Fondo Monetario Internazionale ha inserito la banca fra quelle importanti a livello sistemico globale. Da segnalare infine, nella generale corsa che riguarda i cosiddetti beni rifugio, il minimo storico su cui viaggiano molti bond governativi, a partire da quello toccato nella seduta di venerdì dai titoli di Stato americani con scadenza a 30 anni. Per gli appuntamenti della settimana ricordiamo che oggi Wall Street è chiusa per la festa del 4 luglio, venerdì dagli Stati Uniti arriva la disoccupazione di giugno, altri dati in settimana, le banche centrali pubblicano i verbali delle ultime riunioni e arriva anche l'inflazione cinese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mattino. Caro Oscar, eccoci qua. E allora, siamo tutto il mese di luglio fino alle 9.30. Siamo tutto il mese di luglio fino alle 9.30, ricordando che ogni ora, naturalmente, che andiamo in onda, il contatore del debito pubblico avanza implacabilmente. Ah, sì, il ritmo adesso di inizio di luglio, perché poi bisogna vedere, perché bisogna fare le cose corrette. Non, cioè, si va in vacanza. Non va mai in vacanza il debito pubblico, però ogni mese il contatore, elaborato il Stubroleoni, tiene conto delle cose storiche. Cioè non avanza tutti i mesi allo stesso ritmo. Avanza sempre, però ci sono dei mesi in cui le emissioni del debito sono più forti, altre meno. Diciamo, il ritmo di questo mese sarà più o meno di 7.800 euro ogni 3 secondi, cioè insomma 87 milioni di euro l'ora. Quindi noi facciamo un'ora e mezza, e nel frattempo 87 milioni più altri 40, sono 120 milioni di debito pubblico. Così, in un'ora e mezza. In un'ora e mezza. Allora, avevamo Alessandro da Milano che ci aveva chiamato sul tema, immagino... gli attentati. Pronto? Eccoci Alessandro, buongiorno. Ciao. E niente, io per lavoro mi ritrovo a girare in tante aziende metalmeccaniche, e siccome questo mese di Ramadan, parlando così con gli operai, mi dicevano: peccato che il mondo non è Islam, perché l'Islam è bello. Cioè, stiamo parlando comunque di gente di tutti i giorni, non fondamentalisti, okay? Quindi è proprio, cioè, non voglio aizzare, però la religione in questi casi qua, secondo me, è conta tantissimo come radice. Vabbè, e questo non è per forza un male, voglio dire, non è per definizione un male, però Alessandro, insomma, è quello di cui dicevamo all'inizio, dire che la religione non c'entra nulla in questi casi sembra abbastanza, la globalizzazione, i redditi, questi criteri per cui ognuno applica la propria insoddisfazione politica occidentale, la proiezione, è come se il jihadismo fosse la sua arma segreta per vincere. Stupidaggini assolute. Cioè, quando leggo Piketty, cioè, insomma, interviste di Piketty, dice: ma è colpa dei mercati se c'è Isis. Piketty, ma veramente un bagnetto. Allora, sono le 9:06 minuti e abbiamo un ospite che ci è venuto a trovare in studio, lo ringraziamo molto, perché oggi è il 4 luglio, giornata dell'indipendenza americana, e oggi proprio il 4 luglio io sono andato a curiosare nel frattempo sulla pagina Facebook No al McDonald's in Piazza Duomo a Firenze. C'è una manifestazione, credo alle 10 del mattino si ritroveranno per protestare contro il McDonald's, che potrebbe arrivare a... Ma c'erano molti firmatari, sostenitori? Ma fino a oggi ce n'erano una ventina. Vabbè, di aderenti. Non proprio una gran ressa. Per il momento. Comunque, qui c'è l'amministratore delegato di McDonald's Italia, Roberto Masi. Buongiorno e benvenuto, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, McDonald's in Piazza Duomo a Firenze. Sa che considerano questo che cosa? Cosa vi dicono? Uno sfregio? Un affronto? Ma come, il simbolo della globalizzazione che va lì proprio nel cuore, patrimonio dell'UNESCO? Ancora non abbiamo capito qual è il reale problema, onestamente. Quello che è chiaro è che non ci vogliono, quindi le motivazioni le stiamo analizzando. Avete contrattato? Sì, per mesi abbiamo presentato la nostra idea, prima abbiamo presentato il nostro progetto, e addirittura che l'assessore Bettarini si è espressamente diciamo, dichiarato che ci stavamo adeguando alle loro richieste, quindi che era un segnale positivo anche. Ma è vero che lì c'era un esercizio commerciale che vendeva articoli sportivi e che non andava bene? C'è tuttora. I dipendenti, sport. Voi si impegnate a riassumere? Certamente. Tutto questo andava bene. E il comune poi avete contrattato, avete sulle superfici, sulle cose, eccetera, eccetera, su come fareste, quali alimenti usereste, perché naturalmente a Firenze c'è anche, ricordiamo, Alessandro, Firenze è la città che ha stabilito che per le nuove concessioni ci devono essere i limiti, no? del chilometro zero, della vicinanza di produzione agricola, eccetera, eccetera, dei prodotti che si usano, e anche lì mi è venuto da ridere perché le normative sono sempre più oramai aggressive, però insomma tutta la trattativa è andata avanti. Poi a un certo punto cosa è successo? A un certo punto siamo in attesa tuttora, perché si dovrebbe esprimere domani una commissione tecnica per valutare, dire sì o no al, diciamo, al progetto, e poi a un certo punto sembra che il sindaco Nardella abbia pubblicamente annunciato che non ci vuole. Ma sentiamo il sindaco. Beh, questo sì, è vero, lo ha annunciato. Perché il sindaco di Firenze Nardella non vuole McDonald's? Sentiamo. Ci sono già tanti troiai in Piazza del Duomo, uno in più non fa la differenza, no? Altre critiche che ci sono state fatte. Ma perché dire no a McDonald's? È già pieno di troiai, uno in più non si nota. Non mi sembra una grande argomentazione questa, scusate. Insomma, questa è, caro Masi, l'argomentazione e la critica che qualcuno ha posto a Nardella, no? Siete un troiaio, uno in più o in meno, evidentemente. Donna. No, ovviamente non prendiamo questa diciamo polemica, nel senso che siamo un'azienda che ci teniamo seria. Consideri che in Italia impieghiamo oltre 20.000 lavoratori, quindi vorrei almeno rispettare questo 20.000 collaboratori che lavorano per noi. Pensiamo di essere un'azienda seria che si adegua ai regolamenti, e forse questo proprio ha messo in difficoltà il sindaco, perché ci stiamo adeguando a tutte le loro richieste, quindi non sapendo più, cioè malgrado le progressive barriere che alzano l'asticella, loro si aspettavano che Musea a un certo punto dicesse e dice no, questi dicono sempre sì, esattamente, proprio questo. Però cioè, cambiare il marchio, l'insegna lo facciamo, adeguarsi alla filiera a chilometro zero lo facciamo, inserire prodotti toscani, ma allora, fiorentini lo facciamo. Però di fronte alla richiesta non vi chiamate McDonald's ma viva Nardella, a quel punto dovranno smettere. No, però io vorrei capire, cioè che cosa allora si contesta da parte, non so se della cittadinanza o da parte delle istituzioni, il fatto che McDonald's è un marchio ritenuto simbolo della globalizzazione piuttosto che il simbolo magari non della cucina raffinata, cioè che cosa vi contesta? Si nota bene che la zona è piena di kebaberie alte di 7 metri quadrati, per chi va a Firenze lo sa. Che come le dicevo, non abbiamo capito cosa ci contestano, probabilmente sono dei pregiudizi legati alla nostra azienda. Poi quando abbiamo presentato cosa facciamo, oggi l'85% delle nostre produzioni arrivano dall'Italia, e quindi abbiamo detto che siamo già un'azienda integralmente italiana come filiere e via dicendo. A questo punto il motivo per cui non ci vogliono è a noi sconosciuto. È politica? Cioè è una questione politica? Probabilmente c'è bisogno di un consenso politico, senza andare ad analizzare quali sono le reali motivazioni di dirci no o meno. Prendo un esempio, sembra di essere tornati indietro di oltre 30 anni quando abbiamo aperto il primo ristorante in Piazza di Spagna nell'85 a Roma, in cui però i tempi erano diversi, gli hamburger in Italia non si sapeva cosa fossero, oggi gli hamburger li troviamo in qualsiasi bar o in qualsiasi ristorante, dai ristoranti stellati fino ai, diciamo, allo street food troviamo gli hamburger. E non ci sembra che dopo 30 anni abbiamo, come posso dire, penalizzato Piazza di Spagna, nel senso che siamo lì, non mi sembra che i romani non abbiano più la loro Piazza di Spagna, ma anzi siamo un'offerta in più a quello che è la libera concorrenza, e ci siamo sempre, diciamo, adeguati. Siamo un'azienda che da un punto di vista di qualità alimentare e filiera non abbiamo da insegnare, abbiamo da insegnare a molti in Italia, e quindi ci riteniamo un'azienda adeguata anche per la Piazza del Duomo. Ma di io chiedo, Oscar, che ci sia un ostracismo un po' culturale, sicuramente di base, che fatica a essere vinto, no? La cosa che questo colpisce, certamente. Ci siamo detti che a maggior ragione dopo Brexit bisogna attirare le aziende internazionali, siamo pronti, anzi il sindaco di Milano va mercoledì, credo, sì, lo faccia bene, a Londra a dire noi per la sede dell'autorità bancaria europea invece che a Londra siamo qua, siamo pronti, vogliamo attirare multinazionali, eccetera eccetera. E una volta detto tutto questo, si instaurano trattative su ogni singolo aspetto di una cosa come questa e dopodiché ci si ripensa. Allora, la mia opinione è che se uno dice ed è arrivato a questa fantastica consapevolezza che non vanno prese a calci il capitale internazionale e quello di imprese multinazionali che poi sono radicate nei paesi, non è che sono paracadutate dal Wisconsin, capisci? Non ci sono i cappelli dei cowboy con le Colt con cui si spara a vista nel McDonald's. A maggior ragione in città dove abbiamo un kebab dove veramente vorrei mandare in ass, vorrei vedere un centesimo gli stessi controlli che si fanno su questi grandi gruppi e che sono aperti dovunque. Allora è lì che non capisco come manteniamo sto capitale, trattandogli e poi mettendolo di fronte al fatto che inopinatamente si cambia idea. Ma vediamo un po'. 800 24 0024, anche il numero per i nostri ascoltatori che chiamano ovviamente su questi temi. Poi abbiamo, caro Masi, un altro audio sempre del sindaco Nardella che tra poco sentiamo, che è una fase diversa dalla trattativa con voi. No, sentiamo Enrico, ci chiama da Arezzo. Buongiorno Enrico. Buongiorno, io frequento Firenze per lavoro e per altri motivi assolutamente, sì, perché sono a metà strada, sono a Montevarchi, e devo dire che tutta questa attenzione dell'amministrazione comunale di Firenze verso le traduzioni toscane non c'è, è pieno di ristoranti giapponesi e hanno praticamente fatto traslocare lo storico mercatino in piazza dei Ciompi con la scusa della bonifica dell'Ethernet, desertificando una piazza. Come diceva Oscar Giannino, da Piazza Duomo c'è il Borgo San Lorenzo, che lì praticamente fatto pochi mesi diventa una casba con kebaberie, negozi. Quindi lei dice non vede tutto questo difesa? No, secondo me c'è più una difesa di interessi di dei vari ristoratori che chiaramente vedendo a aprirsi un concorrente che vende un pranzo a 10 euro si vedono mangiare la magnotta. Anche il kebab, se per questo non... Il kebab è un altro target dell'americano che arriva a Firenze a vedere il Duomo. Può un McDonald's, non so, Enrico D'Arezzo, grazie, può un McDonald's in Piazza del Duomo fare concorrenza e sbaragliare tutti gli altri ristoratori per l'americano che arriva qui? Caro? No, non l'abbiamo mai fatto e siamo presenti in tante piazze italiane, turistiche non, e siamo lì noi e lì la libera concorrenza. Noi siamo per la varietà, assolutamente. Vorrei tornare un attimo al commento. Noi abbiamo in corso oggi un ordine che facciamo tutti gli anni di oltre 100 tonnellate di carne chianina, allevata 100% da allevatori toscani, e ci viene chiesto oggi di adeguarci ai prodotti a chilometro zero. Alla filiera zero. Chilometro e abbiamo zero. Detto, scusate, ma dove inizia e dove finisce il chilometro zero? Chilometro. Cioè noi abbiamo... Cioè, c'è più che chianina. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo annullare quello della chianina che è allevato in Toscana e andare su carne fiorentina, che non ci sarebbe non neanche c'è, probabilmente. Esatto, oppure tonnellate. Il latte oggi viene al 100% da Brescia, dalla centrale del latte di Brescia, con allevatori sulla pianura padana. E questo estremismo che ci viene chiesto e noi ci adegueremo, cosa vuol dire? Che dobbiamo smettere di produrre, di comprare il latte nella provincia di Brescia e andare a Firenze? Dov'è il limite di questi regolamenti? Allora, il limite nella esperienza reale degli osservatori, quale noi siamo, della politica italiana, è le cooperative amiche che ti danno i voti. Questo è il vero limite, non è un limite di mercato. E lei lo sa, adesso lei sorride, ma lo sa che non sto inventando, perché questo è la vera norma. Ha una trattativa norma delicata in corso, caro Oscar, e tu lo vuoi fare? Io infatti, lo dico da... Però lui ci chiede, qual è il limite? Questo qua è il limite nella realtà italiana. Registriamo, perché non siamo in TV, che l'amministratore delegato di McDonald's Italia sorride, ma non si pronuncia. Sentiamo un altro audio di Nardella, però. Sentiamo Nardella, sempre. Ma oggi noi siamo un po' come il David della Repubblica Fiorentina, contro il Golia. Il David che ha una fionda in mano. E il Golia è una grande multinazionale, forte, potente, che ha studi legali, avvocati, esperienze in tutto il mondo. Noi abbiamo le nostre ragioni. Eccolo qua, il Golia è qui. Golia, studio, qua è studio, potentissimo, di grigna e denti. Naturalmente il Golia può darsi la sua concessione. No, è il bastone dalla parte del manico, chi ce l'ha? Il sindaco. Però è ovviamente il sindaco. Ma abbiamo spiegato che anche che a livello concorrenziale il regolamento comunale ci obbligherebbe a vendere Lampredotto, Finocchiona ed altri prodotti. La mia domanda è: ma faremmo più concorrenza se veramente domani mattina ci mettessimo a vendere questi prodotti? Oppure con il nostro target, che è ben riconosciuto, chi viene da McDonald's sa che viene per quei prodotti riconosciuti da sempre, oppure La mia domanda è: ma sarebbe meglio che veramente domani a Firenze noi ci mettessimo a vendere seriamente la Finocchione e Lampredotto? Lì probabilmente avremo un altro problema al concorrenza. No, ma non c'è dubbio. Sentiamo però, siccome la risposta è no, l'idea è: così dovete dire di no, perché stravolgete la vostra mission, la vostra mentalità organizzativa, il tipo di offerta, insomma. Ecco. Ci chiamano anche da Firenze, Manfredo, per esempio. Buongiorno, Manfredo. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì. Benissimo, prego. Benissimo. No, a proposito di Lampredotto, faccio il tripaio, il Lampredotto. Ale, viva! Esatto, viva. Sono un concorrente. A proposito, Oscar, scusami, a Torino lo chiamate Quaglietto. Sì, sì, lo so. Anzi, a Moncalieri. E ti aspetto alla festa della trippa Moncalieri a ottobre. Ale, ma grande Manfredo! E l'invito è partito. Vai, Manfredo. Dove tra l'altro fanno un salame di trippa, è la fine del mondo. È la fine del mondo. E vedi, ognuno in Italia ha le sue specificità territoriali. Ma tu, da trippa, come la vedi? Allora, io come la vedo? Prima di tutto, non bisogna dimenticarsi che Firenze è la città dei guelfi e ghibellini. Quindi siamo abituati a combatterci tra di noi. Il problema del McDonald's, secondo me, è proprio un discorso: la città è stata svenduta in questi ultimi anni a un tipo di commercio becero. E ora con questo non voglio dire che becero McDonald's, intendiamoci, non voglio cause civili. No, è stata svenduta a un certo tipo di commercio, appunto miriade di kebabari, di micro negozietti dove vendono solamente alcolici, perché gli americani a 16 anni possono comprare un Kalashnikov ma non possono bere la birra, per cui sì, quando arriva qua si sdanno come terroristi alcolici, diciamo. Ma però perché a quel punto, visto che stiamo parlando di un segmento di tipo perché di offerta completamente diverso, cioè McDonald's eccetera eccetera, perché confondere McDonald's dopo aver per anni e anni praticato quello che dici tu? Non c'entra. No, è che si arriva, secondo me, a un certo punto a un punto di rottura, a un Breaking Bad. Cioè siamo arrivati, io l'altro giorno passavo per Firenze e francamente non riuscivo più a capire se era un centro a Firenze o un centro da un'altra parte. Si è persa completamente ogni tipo di specificità di Firenze. Credo anche che ci sia un problema legato al fatto che comunque McDonald's, nel bene o nel male, è McDonald's. Cioè quindi è nell'idea di tutti la summa del diavolo. Poi portiamo i nostri figlioli a McDonald's. Ma è un punto interessante. Esatto. È quello che Manfredo fa capire che il sindaco Nardella, come vedi, colpisce un punto che per no, ma certo, dice c'è. Firenze è stata svenduta, dice Manfredo, alle varie tipologie commerciali, ma McDonald's è un po' il simbolo, come dire, del diavolo, dice lui, del male, no? Nella ristorazione della mondiale. Libertà. Lei cosa risponde? Sì, siamo il simbolo della libertà, questo è vero, quindi condivido con Oscar questa affermazione. Allora, noi pensiamo che una città tipo Firenze, ma in Italia ne abbiamo tante, debba essere preservato, questo lo sosteniamo, tutto quello che è l'architettura, le tradizioni, le facciate degli edifici, questo penso che sia un valore dell'Italia che dobbiamo mantenere. E per questo noi ci adeguiamo sempre, condividiamo che anzi, quando arriviamo... diamo un contributo proprio a preservare, diciamo, i centri storici. Il problema che da noi sorge quando diciamo: ma cosa devi vendere? Io penso che qui entriamo in un concetto ben difeso dalla comunità europea, anche dall'Italia, dal mondo intero, che quando entriamo su questo aspetto lasciamo un po' libera concorrenza, lasciamo i consumatori e il mercato a decidere. E ciò non vuol dire che i centri storici debbano essere assolutamente lasciati cadere, diciamo, da un punto di vista architettonico. Tra l'altro mi ha molto colpito, in un'intervista che ho letto a Repubblica su questa vicenda, perché lei, Masi, ha detto: ora McDonald's cambierà anche. Nel senso che faremo, e non so se è il caso di Firenze, se farete mai il centro, non il tipico fast food, ma un ristorante con servizi al tavolo. Confermo. Che questo è un cambiamento... Certamente, perché comunque i tempi cambiano, comunque insomma. Fare ristorazione in Italia anche per noi vuol dire adattarsi a quelle che sono le abitudini degli italiani, e quindi saremo un esempio mondiale all'interno della nostra catena, noi partiremo con i servizi quindi a tavolo. Quindi il ristorante, proprio un vero e proprio ristorante, non più il fast food. Esattamente, ma... con cucina a vista, con presa d'ordine al tavolo, con pagamento al tavolo digitalizzato, e quindi siamo un'azienda che vuole stare sul mercato, che cerca di soddisfare i cambiamenti anche dei consumi e delle abitudini. E devo dire che tra l'altro non è neanche la prima volta, perché per esempio se uno ha idea come il McDonald's che sta per Spagna a Roma, non è che c'è, capisci, il doppio arco della M come se fosse ai motel, certo, sulla 101 negli Stati Uniti. È come ovvio bisogna integrarsi col contesto urbano, come in galleria storico, Milano, come in galleria architettonico. Milano. No. Gianluca ci chiama da Firenze, anche lui, buongiorno Gianluca. Sì, buongiorno. Dica. Siamo da Firenze, provincia di Firenze, ma mi sento fiorentino. Bene. Diciamo. Bene. Lei sta col sindaco che ci ripensa oppure no? No, io, vabbè, al di là delle scelte politiche che possono essere di convenienza. No, ma su questo tema dico. O meno, io dico che siccome Firenze è stata svenduta fino all'inverosimile a tutto, a di tutto, di più, indiani, pakistani, magrebini, è stato impiantato di tutto. Cioè, io dico che, secondo me, può avere torto o ragione, lo vedremo successivamente, ma cioè svendere anche Piazza Duomo, secondo me, vuol dire cedere completamente le armi. Allora io dico, cioè, Firenze, che è un quadro rinascimentale, basta vederla, cioè, deve rimanere fiorentina. Cioè, almeno in Piazza Duomo. Cioè, io dico, McDonald's può aprire dappertutto, però io dico, come fiorentino, io voglio in Piazza Duomo, voglio vedere Firenze, voglio vedere nel McDonald's. Va bene, McDonald's, no, è chiaro, Gianluca. No, è chiaro, perché abbiamo 3 minuti per chiudere. ma si vede che, insomma, alcuni italiani, insomma, dicono... È comprensibile, però la domanda successiva è, ma chi ci andrà poi? Certo. Cioè, questo ci dobbiamo porre anche nei centri storici. In Alessandro cui D'Arezzo affitti... c'ha la risposta che non avevamo tempo per mandare in onda. Dice: magari una COP, oppure magari una COP. No, un altro pensa male, negozio, Alessandro, esatto. D'Arezzo, però, o un altro bel negozio, non alimentari, probabilmente perché è che sarà un brand internazionale. Probabilmente venderà scarpe da ginnastica, oppure è che d'italiano ha poco e tanto globalizzato come noi. E non so che valore ma infatti, poi. Lei si è dato una risposta del perché molto spesso viene associato a McDonald's tutto questo tipo di battaglie e non ad altre aziende anche internazionali, ma perché McDonald's proprio? Noi perché abbiamo questa tradizione e diciamo che pensiamo di avere un difetto, che è quello di vendere, fare ristorazione, quindi in Italia fare ristorazione non è complicato, facile, e tutti noi abbiamo una tradizione culinaria forte, regionale, locale. Poi nel mondo dell'ideologia oramai, dello chefismo a chilometro zero, è diventato più complicato. Esattamente. Poi anche chilometro... voi avete anche un difetto, voi apparite come l'America dei cavalieri che sparano, cioè Burger King non è che viene da chissà da dove, questo, eppure no. Per questo fanno la manifestazione, non so in quanti, il 4 luglio, no? E poi simbolo quando parliamo di chilometro zero estremizzato, io questa contraddizione la vorrei dire qua, ne colgo l'occasione, che quando lo ragioniamo in Italia il chilometro zero dobbiamo preservarlo, poi però facciamo di tutto, e anche le attuali istituzioni governative, per promuovere il Made in Italy in giro per il mondo. Ma quando andiamo a 4.000 km promuovendo il Made in Italy, la qualità è preservata. Quando siamo in Italia, il chilometro zero bisogna mantenerlo. Quindi penso che ci dobbiamo mettere d'accordo se vogliamo esportare o se vogliamo preservare solo il chilometro. Faccia un pronostico in conclusione, insomma, come finirà questa vicenda? Ci sarà il McDonald's in Piazza Duomo? È vero che non siete voi a decidere solamente? Allora, insomma, noi continuiamo ad essere ottimisti, perché domani ci sarà una commissione che si esprimerà con tutte le nostre integrazioni alla documentazione. Per definizione siamo ottimisti perché pensiamo di esserci adeguati e di non far nulla di male, tutt'altro, di portare anche qualcosa a Firenze rispetto a quello che c'è oggi. E aspettiamo domani e poi pensiamo e siamo ottimisti di tenere il dialogo aperto con le autorità comunali. Nardella, ripensaci, torna a essere quello che trattava. No, e se invece non dovesse andare bene, c'è il rischio quasi di perdere anche investimenti e anche assunzioni, questo lavoro. Non è, al di là di quel locale lì, che sì, sono comunque 80 posti di lavoro contro gli attuali 14 impiegati dall'attuale attività commerciale, che è un negozio di sport, ricordo. E ovviamente questo non aiuta, avendo noi un azionista americano, a convincere sì, venite in Italia. Venite in Italia. Perché può essere un locale, ma il timore è, si estenderà questo in Italia, su tutte le città, certo. E quindi ovviamente la riflessione la dobbiamo aprire. Poi è la città di Renzi. Sì, dove il Ponte Vecchio è stato infatti, dato e noi abbiamo a quel punto brindato a privati per eventi. Nell'intervista Renzi, a Repubblica Masi ha detto: certo, Nardella in questo periodo è influente perché a Roma ci sono temporaneamente a lavorare dei fiorentini. Temporaneamente. Viva il 4 luglio, l'indipendenza americana, la libertà. Eccolo, questa è la mia idea. Allora, noi ci fermiamo qui, ma ci siamo anche domani. Oscar è oggi pomeriggio alle 16.30. Si sa, e domani noi sempre torniamo qui a controllare la avanzato del debito pubblico, esatto. Non ve lo dimenticate perché lo paghiamo noi. Ringraziamo Roberto Masi, amministratore delegato di McDonald's Italia, che è venuto a trovarci in studio. Alla prossima.